Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Esiste una parola che viene spesso usata in fatti di cronaca come motivo collaterale o anche come causa scatenante di delitti o anche di operazioni di polizia, di arresti o di reti che attanagliano la città, ma allo stesso tempo aumentano le difficoltà economiche e finanziarie, ma non soltanto di imprenditori, ma anche di privati, di singoli cittadini. La parola è usura. Avere a che fare con un usuraio non credo, non immagino che sia una bella esperienza. Ne so qualcosa per lontane e antiche vicende di famiglia, grazie a Dio che non riguardavano me se non da bambino. E so esattamente cosa significhi questa figura mellifo che molte volte fa parte persino della cerchia delle amicizie, se non addirittura delle parentele. Una persona che si offre di aiutarti in un momento che sei in difficoltà. Naturalmente il suo aiuto non può essere gratuito e tu entri in una rete da cui difficilmente esci. Si parla di usura molte volte legati alla malavita organizzata, legati alle grandi organizzazioni. Il denaro a usura ha un senso chiederlo, ha un senso offrirlo, se poi si hanno i mezzi per richiederlo con gli interessi. Se io per assurdo facessi l'usuraio e prestassi 50 euro al professor Chiappini, lui potrebbe anche non ridarmeli. Cosa potrei fargli? O lo meno, è il doppio di me, non posso fargli nulla. No, il bello che l'usuraio, oltre a valersi naturalmente di titoli, avere una capacità per poi impegnare comunque anche attraverso mezzi esigibili la sua vittima, va anche oltre. L'usuraio ha una sua catena di riscossione del suo credito, che naturalmente va molto oltre le normali, banali e legali capacità di riscuotere un credito. L'usuraio è quello che ti fa spezzare le gambe, l'usuraio è quello che ti fa sparare, l'usuraio è quello che ti fa incendiare il negozio, l'attività, la casa. L'usuraio è quello che riesce a minacciare te e la tua famiglia, a colpirti negli affetti. Oggi vorrei parlare di usura anche perché mi pongo il problema di come mai in un momento in cui è così evidente la crisi economica, in cui ogni mattina facciamo l'elenco degli imprenditori che si sono suicidati, si parli meno di usura che del solito. Per un momento come questo, in cui le difficoltà fanno sì che le banche chiudano il credito, in cui sia molto difficile tenere botta alla pressione fiscale, in cui i problemi sono enormi, come mai non si dice che è aumentato anche il fenomeno dell'usura? Perché immagino che gli strozzini si staranno fregando le mani. Nel momento in cui le banche difficilmente danno soldi o fanno crediti, uno ricorre naturalmente o alle società finanziarie mascherate come tali, ma in realtà strozzinaggio semilegale, o allo strozzino vero e proprio. Ne sapete qualcosa voi degli strozzini? Sapete qualcosa degli usurai? Avete delle esperienze dirette? Perché di questo fenomeno è qualcosa che rimane soffuso. Poi le denunce che vengono fatte ogni anno direttamente sono molto poche rispetto a quello che sia il volume in realtà degli affari. Ognuno che abita in una piccola provincia, in un paese, in un luogo in cui le persone si conoscono tutte, sa benissimo qual è la famiglia degli strozzini. Io vengo da una città in cui c'era una grande famiglia di usurai, tutti lo sapevano, era la famiglia più ricca della città. Avevano ville, avevano possedimenti, avevano una banca. Tutti sapevano che facevano lo strozzino. Lo chiamavano banca strozzi. Non faccio nomi, non voglio entrare in particolari. Ma noi tutti sapevamo che le persone più benestanti della nostra città in realtà facessero gli usurai. Lo facevano con il sorriso sulla bocca, lo facevano con belle mogli ingioiellate, con bei figli che venivano a scuola con la Ferrari, e noi ci andavamo a piedi o ci andavamo con l'autobus, ma facevano gli strozzini. Quanti strozzini conoscete? E cosa ne sapete voi oggi dello strozzinaggio? Io davanti una ricerca fatta alla Camera di Commercio di Milano, leggo la relazione di Livia Pomodoro, divide l'usura in tre grandi categorie: i semiprofessionisti, i professionisti e i mafiosi. L'usura di stampo mafioso è sì senz'altro interessante, ma è un fenomeno che non mi interessa tanto trattare questa mattina. Il semiprofessionista probabilmente appartiene a quella categoria che ho detto che rientra nelle organizzazioni che ti promettono fantastiche maniere di finanziarti, di darti dei soldi, poi tanti subito, quanti ne vuoi, senza nemmeno nessun tipo di garanzia. Perché non dovrebbe darti dei soldi senza garanzia? Non viene questo sospetto quando i soldi servono, quando si ha bisogno, non si guarda in faccia a nessuno, quando la pressione ormai dei creditori è tale, quando si pensa che basti quel poco per salvarsi, per arrivare al giorno dopo, per arrivare a chiudere la settimana, poi il venerdì chiudono le banche, nessuno ti chiama più, hai 2 giorni di respiro e quindi in quei 2 giorni ti dai da fare. E poi esistono naturalmente i semiprofessionisti. I semiprofessionisti chi sono? Ma immagino sono quelle placide vecchiette tranquille che vedi la mattina andare a fare la spesa al mercato, le vedi malvestite, dimesse, che però sai che hanno appartamenti, case, possedimenti. Uno va a casa pian piano, tranquille, lente, con quelle manine ben curate, tirano fuori il mucchietto di soldi, te li danno, sul quadernino segnano gli interessi. Questa è una versione arcaica, antiquata. Ne avete di più moderne, di più attuali? 800 24 00 24. L'assegno era intorno ai 12.000 euro e lui è intervenuto con una cifra di 6-7.000, adesso non mi ricordo. È intervenuto molto spavaldamente anche nei confronti del direttore stesso, con delle frasi: non ci sono problemi, qual è il problema? Poi però dopo una settimana mi ha fatto andare nel suo ufficio e mi ha fatto firmare 24 cambiali da 4.450 euro, pari ad una somma di 109.000 euro. Un altro prestito di 10.000 euro che per 7 anni ho pagato, abbiamo pagato, perché devo dire che mio marito ha fatto anche lui salti mortali, 700 euro al mese. Questa è una testimonianza, naturalmente con la voce artefatta, è una donna che parla, è Paola, moglie di un proprietario di un autosalone che è andato in difficoltà finanziaria. È tratto naturalmente dall'area YouTube del Fatto Quotidiano, che cito come fonte. E questa Paola racconta quella che è la storia di una normale vicenda di quotidiana usura. Sembra che è sufficiente un piccolo aiuto per uscire dalla difficoltà, poi tutto tornerà come prima, ma ci si mette nelle mani di uno strozzino che è come una sanguisuga e non ci mollerà finché ancora abbiamo una goccia di sangue. Non solo una volta sono stata in ospedale, sono stata in ospedale più di una volta, ho subito calci, pugni, frattura delle ossa davanti a mio figlio. Ho guardato gli occhi di mio figlio e ho detto: adesso basta. Basta, non ce la faccio più, devo reagire. E questa cosa mi ha dato la forza di affrontare tutti e di denunciare. Io non dico che siamo stati noi a cercare loro, questa è una cosa molto importante. Sono proprio loro che sentono il fiuto e riescono a capire quali sono le persone che hanno bisogno di soldi. Le indagini si sono chiuse, loro sanno benissimo che ho fatto questa denuncia. Vedete come viene confermato quello che era un po' il frutto della mia esperienza, del mio ricordo all'inizio della trasmissione: lo strozzino dei mezzi concreti, reali di coercizione. Lo strozzino non si sa come, non si sa quando, ha una serie di persone che sono capaci di venirti a prendere a calcio, a pugni, a romperti le ossa davanti a tuo figlio. A volte nemmeno necessaria una violenza intensità che rasenti le lesioni gravissime. Vorrei vedere voi se qualcuno venisse a minacciarvi con vostro figlio per mano mentre lo portate a scuola e guarda vostro figlio, vi dice alcune parole che vi fanno gelare il sangue. Lo strozzino, mi piace chiamarlo così, l'usuraio, mi sembra di dargli una dignità quasi letteraria chiamandolo di usurai. C'è un'infinita serie di usurai che appartengono alla narrativa, alla letteratura. Lo strozzino è qualcosa di schifoso, lo strozzino assomiglia appunto all'avvoltoio. L'avvoltoio sente l'odore di un quasi cadavere, vede la persona che sta per morire, che sta in difficoltà, ha questo suo sesto senso sviluppato e ci si butta sopra e toglie le ultime possibilità che ha questa persona di sopravvivere, perché si ciba appunto della carogna, dei rimasugli, di ciò che può rimanere di una persona. 800 24 00 24, cosa ne sapete voi dell'usura? Luca Squeri, buongiorno. Buongiorno a voi. Luca Squeri è presidente della Commissione Sicurezza e Legalità di Confcommercio, membro del Comitato per le Vittime dell'Estorsione e dell'Usura presso il Ministero dell'Interno. La domanda è quella che ho fatto all'inizio: come mai si parla poco oggi di usura, che sembra che siano ci sono tutte le condizioni per cui oggi è il Bengodi, la Disneyland dello strozzino, la situazione come la stiamo vivendo in questo momento in Italia. Ma è una domanda legittima, a mio avviso si parla poco perché appunto apre un fenomeno talmente raccapricciante proprio, lei ha parlato di avvoltoi, appunto di strozzini, che si parla tanto di crisi economica, di suicidi, di tutto quello che è la conseguenza rispetto a quello che stiamo vivendo e non si arriva poi a quella che è la conseguenza vera, che è un dramma non più economico ma sociale, perché non colpisce solamente gli imprenditori ma colpisce le famiglie, colpisce i disoccupati, colpisce coloro i quali non riescono ad arrivare a fine mese e dunque c'è una sorta di timore di svelare questo aspetto. Le do subito un primo test della percezione generale rispetto a quello che ho detto. Scrive un ascoltatore tramite SMS, sono i più attenti e più critici su quello che noi diciamo in trasmissione, dice: come riuscirà Nicoletti a inserire il suo lubrico anche nell'usura? Ma che racconta di cavolate sul suo paese? Internatelo presto, subito, è molto pericoloso. Come se avessi toccato un argomento che rasenta l'oscenità, di cui non bisogna parlare, come le corna in famiglia, guai a nominarle, o come uno zio matto in famiglia, guai a parlare di strozzini perché si parla male del proprio paese. È d'accordo lei? Non sono d'accordo nel criticare chi affronta il problema, per cui anzi, il fatto che voi mettiate sotto riflettori questo tema è assolutamente condivisibile e apprezzato. Tra l'altro lo stesso Presidente del Consiglio ieri, il Presidente Monti, ha cominciato a affrontare il tema dei suicidi, che è un tema che ormai è all'ordine del giorno, proprio perché è un fenomeno che non si può più tenere nascosto. Ma dietro i suicidi nessuno si domanda, perché un imprenditore che arriva a un gesto così disperato ha tentato tutte le strade. E lei mi insegnerà che le strade vanno da rivolgersi alle banche, poi rivolgersi agli amici, poi rivolgersi alle finanziarie e poi il passo successivo ti danno il mistico fogliettino con il nome della persona per aiutarti, che è lo strozzino. Quindi quanti strozzini ci stanno dietro ai suicidi? Beh, tanti. Tra l'altro lei diceva appunto che le denunce sono poche, sono veramente poche rispetto a questo oceano, circa 400 all'anno, e noi presso il comitato appunto che affronta questo argomento affrontiamo coloro i quali hanno il coraggio di denunciare e sono tutte veramente situazioni drammatiche. Tra l'altro il termine di usura è un termine assolutamente diciamo flessibile, perché dipende da quello che è il tasso di soglia e il tasso di soglia si modifica rispetto a quello che è l'andamento del credito. Per esempio se adesso una puntualizzazione, il tasso d'usura è quello che è superiore al tasso medio, lo si incrementa di un quarto più 4 punti. In soldoni, se il tasso medio adesso dell'apertura di credito di un conto corrente è di circa l'11%, il tasso di soglia d'usura è il 18%. L'anno scorso era meno, per cui chi non era usuraio adesso, chi non era usuraio un anno fa, lo è adesso. E comunque fatemi dire che già l'11%, che è il tasso medio, perché non parlare anche qui di tasso usuraio? È un termine assolutamente soggettivo. Sì, diciamo che in altri tempi, in altre epoche, un tasso di questo tipo sarebbe stato considerato di usura. Esattamente. Quindi è molto variabile. Quindi, come vede, è una sottile linea e è un argomento limaccioso proprio perché si è sempre borderline. Però per questo ero molto interessato a parlare dei cosiddetti usurai non professionisti. Sono quelli, come molto mi stanno scrivendo, che sono gli stessi funzionari infedeli delle banche. Quando vedono un cliente in difficoltà, invece che usare gli strumenti propri della loro professione, sono infedeli anche al proprio stesso istituto, ci tengo a dirlo, che non voglio colpevolizzare nessuno, e hanno un database individuale di personaggi in difficoltà. E allora comincia l'approccio. Sentiamo Nunzio. Nunzio, buongiorno. Buongiorno, dottor Giannino. Sì, dottor Giannino, guardi, l'ho appena visto uscire con la sua valigia, impeccabilmente vestito, con una fantastica divisa immaginare. Purtroppo posso sostituirlo io impropriamente. Sì, va bene, fa piacere lo stesso. Volevo dire che io ho avuto esperienza come usurai, perché le banche mi hanno chiuso il credito di anticipazione fatture con assegni accompagnati. E qualche direttore mi ha mandato dagli usurai, a cambiare soldi. Ecco, gli usurai come si è comportato gli usurai? Come è stato il rapporto? L'usuraio si è comportato benissimo con me perché io ero... Quindi era una brava persona. Ero casa e lavoro. Ma allora, scusi, qual è la differenza tra l'usuraio e... L'usuraio perché sono le banche che creano tutte queste situazioni, dottore, capito? Sì, lo so, ma... al di là del fatto poi chi compie il reato, chi fa l'usuraio è lo strozzino, potrà essere a un certo punto uno vi dice non vi posso più fare credito, rivolgetevi altrove. Se poi il personaggio è un personaggio che si muove in una zona intermedia, vi dà anche il nome della persona, però la responsabilità finisce il momento in cui loro dicono non ti posso più dar credito. Io vorrei non allargare troppo il problema e parlare per linee teoriche, mi interessa di capire questa fetta di umanità come è composta, dove la si trova e come lavora, come approccia la propria vittima. Renzo, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Nicoletti. Io l'ho voluta sentire perché vorrei fare delle osservazioni. Io ho lavorato per tanti anni in banca e sto per dire delle cose che tutti sanno ma nessuno ha il coraggio di dire. Diciamo, sì. Non ci creerà problemi. Nella mia esperienza, lei deve immaginare che le persone che arrivano allo strozzino spesso e volentieri vi arrivano per il comportamento di funzionari infedeli. E questo ci si arriva, questo perché lei detto. L'ha detto, ma io le dico pure la tecnica. Immagini lei di essere un commerciante. Immagini lei di avere la possibilità di comprare una grossa partita di autoradio. Siccome è una grossa partita, può sviluppare un bello sconto. Però lei è conosciuto presso la banca e c'ha un fido che ha già utilizzato al massimo. Allora che cosa fa? Quindi la banca non ha fiducia e non mi finanzia questa operazione. No, mi faccia finire perché scoprirà una cosa molto bella. Allora lei si rivolge al direttore di banca e chiede un extra fido. Il direttore di banca la conosce, c'è un rapporto con lei di diversi anni e gli dice sì, adesso io ti concedo, non so, 30, 40 milioni, all'epoca parliamo di milioni di lire. Io ti concedo 30-40 milioni, però naturalmente abbiamo la pratica, però non ti preoccupare, sei poi conosciuto, chi è che non ti conosce, poi garantisco io, eccetera, eccetera. Però lei sa pure che la banca, quando deve concedere un fido, vuole delle garanzie. Eh beh, è chiaro, certo. Ti fa dirà... un esame patrimoniale del cliente, sì. È chiaro, no? Ti fa un'ipoteca. Quindi il commerciante, soddisfatto delle promesse che gli dà il direttore, che col quale c'è un rapporto pluriennale, compra e si espone nei confronti del fornitore questa partita di merce a prezzi particolarmente agevolati. Però che succede? In epoca successiva, dopo poco tempo, arriva in banca l'assegno che questo cliente ha spiccato per pagare questa fornitura. E il direttore richiama il cliente e gli dice, sai, sono proprio mortificato, ma la direzione, tu sai che compete a loro questo tipo di operazione, non me l'ha autorizzata. Lei immagina un commerciante che rischia di andare protestato. Sì, oggi non è più nemmeno uno di quei drammi per cui la gente una volta... Esatto. E muore praticamente commercialmente, perché tutto il suo giro d'affari, una volta che va nell'elenco dei protestati, muore. Lei lo sa questo. Sì, e quindi? E quindi che cosa fa? Implora il direttore, dice, ma no, mi devi dare una mano, ti sei impegnato te, come uomo, ma come qua, come là. E il direttore fa, guarda, io non posso proprio aiutarti, non dipende da me, credimi, io mi sono giocato quasi la carriera per difendere la tua posizione, mi hanno fatto questo sgarbo, sai, anche noi abbiamo i nostri problemi. E ti suggerisco però uno che ti può aiutare. Dico, però c'è un cliente che forse ne potrebbe aiutare, certo. Ecco come nasce. Certo, sì, è risaputo comunque, fa parte dell'esperienza. È la banca che manda al cliente, lo induce prima ad andare in extra fido. Capisce qual è il discorso? Prima lo ha indotto ad andare in extra fido. E questa comunque, guardi, è una fattispecie. È una fattispecie di classico caso in cui un imprenditore può trovarsi immediatamente proiettato nel giro dell'usura. Non è soltanto l'unico caso. Io vorrei capire e ragionare fra un istante, dopo le informazioni della borsa, anche di situazioni più banalmente legate a vicende familiari, a non attività imprenditoriali, ma anche alla gestione di budget familiari, individuali, di piccolissime operazioni che si fanno e velocemente, passo dopo passo, ci trova in mano agli usurai. Io so di molte famiglie che pagano per anni ancora i debiti fatti semplicemente per sposare una figlia. Questo accade, accade ad alcune latitudini del nostro paese. Questo vorrei capire e vorrei sapere tra un istante. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. È stato uno degli errori più grandi che abbiamo commesso, quello di andare sotto usura. Abbiamo avuto un dissesto finanziario, abbiamo chiesto, diciamo, aiuto. La prima volta, la prima cifra che abbiamo chiesto erano 12 milioni di lire. Sono stati 10 anni sotto usura. Lui ce l'ha detto apertamente, ha detto: io sono sicuro che voi non mi denuncerete, però se lo fate tuo fratello gli sparo, faccio sparare tuo fratello. No, non sono camorristi, però erano collegati a dei clan camorristi. C'erano collegati 800024. Questa mattina parlo di usurai. Quello che avete sentito è un'altra testimonianza presa dalla pagina del Fatto Quotidiano, con delle interviste su YouTube proprio a vittime dell'usura. Quello che sto notando come reazione del pubblico è abbastanza prevedibile. C'è un generalizzato senso di dire: il primo grande usuraio è lo Stato, gli usurai sono le banche. Non metto in discussione questo punto di vista, però guardate, questo rivela una difficoltà intrinseca, viscerale, a parlare dello strozzino come amico di famiglia. C'è un film bello di Sorrentino che parla appunto dell'usuraio come la persona ci sta vicino. È come se fosse facile, non voglio dire che sia errato, falso, ma è generalizzare il problema, dire che come dire piove governo ladro, come dire è tutto magna magna. Siamo d'accordo, non ci piove, non è questo il tema della trasmissione. E vorrei parlare di quella sottile, impalpabile, invisibile maglia che va stringendo le famiglie, che ci contatta persona dopo persona, non perché noi siamo imprenditori, perché dobbiamo fare, come ha detto il nostro ascoltatore, un importante acquisto che risolverebbe molti nostri problemi e ci viene indicata quella finanziaria o quel cliente che può aiutarci e che è l'inizio della nostra rovina. No, vorrei parlare quello che, con un termine molto calzante, a Roma chiamano il cravattaro. Il cravattaro è quello che ti dà la cravatta, sembra che ti faccia un regalo, poi la cravatta sempre più inesorabilmente ti si stringe al collo come un cappio e tu ti ci impicchi. Professoressa Sonia Stefanizzi, buongiorno. Buongiorno. Lei insegna sociologia presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Studi Milano Bicocca. È autrice, insieme al magistrato Rosario Spina, di un libro, L'usura, un servizio illegale offerto dalla città legale, edizione Bruno Mondadori. Lei, secondo i suoi strumenti di analisi e la sua esperienza, in qualche maniera comprende perché questa mattina ci sia questa riottosità di cogliere il problema dal punto di vista in cui io lo suggerisco, definire, allucinare la figura dell'usuraio? È molto bello, orribile dire e nascondersi dietro il fatto: sì, sono le banche, è lo Stato, il grande usuraio. Perché nessuno, tutti rimuovono il fatto che l'usuraio molte volte, proprio come nel film di Sorrentino, l'amico di famiglia? Allora, sì, dunque il problema è questo, che sicuramente diciamo nel contesto milanese, perché questo è il contesto milanese lombardo che io ho studiato, analizzato con le mie ricerche, la principale vittima del sistema usura è sicuramente l'artigiano, il piccolo artigiano commerciante, diciamo il piccolissimo imprenditore, la vittima. Però il motivo che spinge sia in ambito economico l'artigiano commerciante, sia anche i singoli individui a richiedere, ad accedere al mercato del credito illegale, è che l'usuraio non chiede garanzie, almeno diciamo in un primo momento egli si pone di fronte al debitore con un atteggiamento rassicurante e comprensivo, e quindi paradossalmente quello che è un po' emerso diventa quasi come un'ancora di salvezza, fatto come una sorta di amico di famiglia, come lei ha fatto riferimento al film di Sorrentino, con quel diciamo titolo così provocatorio, l'amico di famiglia. E questo atteggiamento così amicale, rassicurante, spiega anche, come dire, il fatto che molto spesso, quasi sempre, l'usurato inizialmente non denuncia il reato, non denuncia l'estorsione, e questo influisce quindi anche sull'esterno, perché si ha la percezione che il fenomeno dell'usura, almeno guardando poi i dati che emergono dalle denunce, non sia così, così rilevante. Ma diciamo l'aspetto inquietante è che c'è proprio, come dire, nella logica del rapporto usuraio che si viene a creare, perché da una parte cioè, è un rapporto strano, un rapporto di scambio, un rapporto perverso, perché da una parte c'è una forma di riconoscenza del debitore nei confronti di chi gli ha prestato il denaro e quindi si può fare riferimento quasi, non so se è presente, la sindrome di Stoccolma. Per dire esattamente questo, una sorta di sindrome di Stoccolma applicata all'usura. Esatto, la vittima difficilmente denuncerà, quando la vittima difficilmente denuncia il proprio carnefice, no? E questo ovviamente avviene nella prima fase del rapporto, quando si pensa che poi si possa rientrare. Poi di fatto, anche, mi scusi professoressa, non avendo titoli di garanzia, l'usuraio amico, quello che è mellifo, sembra ci voglia bene, sembra quasi che noi gli facciamo uno sfregio e se con la nostra diffidenza ripaghiamo il suo grande affetto, anche perché probabilmente è untuoso, è mellifuo, è avvolgente, sembra quasi che realmente faccia qualcosa per noi. Ma come si garantisce i nostri confronti prima di farci spaccare le ginocchia martellate? Allora, non so come si garantisce, perché questo poi rientra diciamo nel tipo di relazione personale che si viene a instaurare. Io le posso dare delle linee generali interpretative del fenomeno. Allora, se noi ritorniamo alla vittima, quella che è la principale vittima nel mercato economico lombardo milanese, quindi dicevo che era l'artigiano commerciante, allora che cosa succede? Che molto spesso il motivo che porta il piccolo imprenditore, l'artigiano a cercare il credito sul mercato illegale è sicuramente da una parte, come è stato detto, l'impossibilità di accedere al credito legale, perché a volte si è in una situazione magari anche di protesto, cioè non solo non si riesce a offrire sufficienti garanzie alle banche, ma ci sono anche magari, io ho dei dati, ho studiato questo fenomeno, per cui delle evidenze empiriche, alle spalle magari c'è una bancarotta fraudolenta, ci sono delle emissioni di assegni a vuoto, cioè ci sono delle situazioni che sono tali per cui non si può accedere al credito. È chiaro, è l'ultima spiaggia. Chiaro. Esatto, e quindi c'è proprio l'idea che ci sia proprio un vantaggio nell'accedere, nell'avere qualcuno che possa superare questa situazione. Non solo, ma c'è anche un aspetto molto pratico che va detto, che c'è una velocità e una semplicità nell'ottenere il prestito che a volte sono molto importanti per un piccolo commerciante. Diciamo la verità, uno si trova di fronte alla necessità di tappare dei buchi, come una diga che fa acqua da varie e chi ti dà il primo tappo per chiudere il primo buco ti dà una giornata di ossigeno, e di fronte a quello uno fa qualunque cosa. Perché proprio c'è una sorta di relazione di scambio, di reciproci vantaggi. Quindi tanti o pochi, subito e senza tante storie. E uno ha i soldi in mano, solo che una volta che la spesi inizia il problema. Sentiamo Antonio. Antonio, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Niente, è un'esperienza non diretta, fortunatamente, da questo punto di vista, capitata ad un amico, lui ancora ragazzo, aveva il padre con il fratello che faceva il mestiere, credo, dell'usuraio, che aveva prestato suo padre non so che cifra per la propria attività di famiglia. Capitò un giorno che il padre avrebbe un malore e fu portato in ospedale dal fratello e dalla moglie, cioè dalla madre del mio amico. E durante il viaggio, dove poi il padre si spense mentre si stava spegnendo, il fratello ricordava alla moglie, anzi ne metteva a conoscenza, che il fratello aveva contratto un certo debito e che nel caso non ce l'avesse fatta, si dovesse prendere lei l'onere di... Questo mi lasciò molto perplesso, considerando che... Cioè, poi... anche in punto di morte sentia talmente forte, pressante, l'impellente figura dell'usuraio che stava per morire, ma... No, è l'usuraio che... con il fratello a cui aveva prestato i soldi dietro in punto di morte, ricordò alla moglie o mise a conoscenza la moglie del debito del marito. Ah, quindi l'usuraio, cioè sciacallo nel vero termine della parola, capito? È impassibile, d'altronde fa parte del suo essere. Ma fratello, famiglia, io non riuscivo a credere. Beh, guardi, io non mi meraviglio, perché sa, io ho spesso volte teorizzato che i legami di sangue sono delle pure ipotesi, sono dei condizionamenti sociali. Il fratello può fare le peggiori schifezze, ma per questo lei oggi mi dà possibilità ancora una volta supportare quello che sto chiedendo alle persone. Datemi esempi concreti, se possibile, del piccolo non professionista immerso nel vostro habitat quotidiano che da un giorno all'altro diventa il vostro carnefice. Giovanni. Sì, buongiorno. Senta, io complimenti, la stimo tantissimo come persona e anche come professionista. Io ho una vicenda velocissima. Io sono veramente fuggito dall'usuraio, le spiego brevemente. Gestisco un'azienda ben patrimonializzata, oltre 30 dipendenti. L'azienda sta attraversando una fase difficile, un po' come tutti. A un certo punto si è trovato in mancanza di liquidità, abbiamo chiamato uno studio di consulenza per rimettere su tutta una serie di cose all'interno dell'attività aziendale. Tutto questo è durato 6 mesi. Nei primi 3 mesi loro hanno fatto tutta una serie di attività di ammorbidimento della posizione dei nostri creditori. Hanno spostato i pagamenti, hanno ristrutturato, hanno tagliato dei costi. Si movimenta. È veramente un bel lavoro, dove uno a un certo punto gli inizia a dare fiducia. Poi hanno detto: noi possiamo fare attività di sviluppo, differenziamo i prodotti, ampliamo quella che è la gamma, apriamo a nuovi mercati. E gli abbiamo dato un po' in mano tutte queste tipi di attività, la cosiddetta crescita di cui oggi si parla tanto, la crescita che tutti speriamo riparta. Sì. A un certo punto tutte queste attività, poiché noi non, aziendalmente non siamo stupidi. Allora, in sintesi, cosa vi è cresciuto, Giovanni? Non è cresciuto nulla, perché loro a un certo punto hanno iniziato a fare questi tipi di attività, ma ogni cosa che iniziava non veniva mai portata a termine, perché quel cliente a un certo punto era venuto meno, aveva preso altri impegni, non si è potuto fare questo. Intanto però l'azienda zoppicava. Quando tu dai l'attività di crescita in mano a qualcuno e poi non cresci, i soldi non entrano, tu hai in difficoltà. E questi iniziano a fare: guarda, ma noi abbiamo un cliente che potrebbe rilevare parte, il ramo, potremmo fare determinate cose. Vi hanno aperto una backdoor, come si dice esatto. In termini informatico, cioè vanno. Allora, visto come ci troviamo, abbiamo chiesto: sì, e quanto costa? 5%. Ma è una banca? No, è una finanziaria, un istituto finanziario straniero. Vabbè, come ve la siete cavata? Poi do la linea al traffico. No, velocissimi. A un certo punto, altri 2 mesi di affanno, sì, vengono tutto a posto, si può fare, però costa il 30%. Dopo 5 minuti queste persone sono andate via dall'azienda, le abbiamo mandate a quel paese. Spero a calci nel culo, perché ho detto: non ci serve nulla, andatevene. Beh, come vede, però, questo è importante, perché esiste una tecnica anche di chi non ha fretta. Lei non aveva in quel momento, quando li ha chiamati, non era proprio con la corda al collo. Quindi il consulente ha preso tempo, pian piano, vi ha dato degli esempi, che lui in realtà è un consulente affidabile, ha messo a posto alcune cose, ha movimentato un po', ha tranquillizzato i creditori. Poi nel momento giusto aveva lentamente aperto una falla in cui sarebbe entrato un siluro che avrebbe senz'altro sfondato, ma voi avete capito in tempo. Melog, la realtà condivisa. Stiamo analizzando il fenomeno dell'usura e cominciamo ad avere almeno qualche testimonianza che esce un po' dai soliti luoghi comuni, dalle storie già raccontate. Richiamo in casa uno dei miei ospiti che ho tenuto in ascolto finora, che è Luca Squerri, ricordo che è presidente della Commissione Sicurezza e Legalità di Confcommercio, è membro del Comitato per le Vittime dell'Estorsione e dell'Usura presso il Ministero dell'Interno. Luca Squerri, quest'ultimo racconto di quest'ultimo ascoltatore presenta degli aspetti non proprio conosciutissimi, la società di consulenza che mai uno penserebbe che poi alla fine, dopo molto tempo, dopo aver conquistato la fiducia del proprio committente, poi parta con l'offerta della polpetta avvelenata, dell'usuraio che era pronto dietro l'angolo. Sì, diciamo che è un aspetto del problema. Diciamo, il principio generale è la difficoltà all'accesso al credito. In questo momento, rispetto a un'esigenza che sale, si restringe questa offerta di credito, per cui il vero strumento per cercare di porre un rimedio efficace a questo fenomeno sarebbe un atteggiamento delle banche più disponibile proprio a far sì che situazioni di necessità poi non debordino in questo tipo di fenomeni. Ma questo risolverebbe secondo lei tutti i tipi di usura? Perché io, vede, sto insistendo, non avendo una formazione e una vocazione prettamente finanziaria economica, mi interessa più l'aspetto sociale, le persone si indebitano per fare una vacanza, si indebitano per comprare un'automobile, per comprare un elettrodomestico, per far sposare una figlia, nel meridione è abbastanza noto le famiglie che pagano usurai per anni perché sono dovuto fare il matrimonio alla faccia di tutto il vicinato. Ecco, con le banche questi ben poco avrebbero a che fare, non che voglia difendere le banche, però voglio andare più a fondo del problema. Sì, no, ma lei ha ragione, diciamo che non risolve certamente il problema nella sua complessità, però limiterebbe i danni per lo meno. Ah, questo è sicuro, sì, sì. Però è un altro cento. Ecco, voi cosa fate invece come comitato, visto di fronte al numero così esiguo di denunce, è risibile, praticamente quasi inesistente, cioè diciamo che l'usura non la denuncia nessuno, chi sta dentro sta zitto. Qual è lo strumento che avete voi per aiutare, per intervenire, per capire e comprendere come si possa fare in qualche maniera arginare il problema? O se non c'è niente da fare, siamo un paese che tutti fanno il passo più lungo della gamba, è fisiologico, è genetico e quindi gli usurai avranno sempre una ragione di esistere. Ma fermo restando che la sua ultima affermazione purtroppo è vera. E cosa facciamo? Beh, come comitato noi decidiamo l'erogazione di risorse in modo tale che chi è stato vittima dell'usura possa ricominciare la sua attività, possa rimettersi in sesto. Poi dal punto di vista istituzionale c'è anche un fondo di prevenzione dell'usura e questo è presso il Ministero dell'Economia e anche queste sono risorse che vanno a alimentare quelli che sono le realtà dei confidi, per esempio. I confidi nella realtà Confcommercio sono quelle istituzioni che danno finanziamento, garantiscono il finanziamento alle imprese. C'è da dire che è stato fatto un ulteriore passaggio ultimamente, proprio in febbraio, tra il Ministero dell'Economia, l'ABI e la Confcommercio e altre associazioni di rappresentanza categoriale, è stato firmato un protocollo che va incontro in maniera concreta a queste problematiche. Per esempio abbiamo sentito un ascoltatore che ha avuto problemi rispetto alle anticipazioni bancarie. Parte di questo protocollo prevede un allungamento fino a 270 giorni delle scadenze di questo tipo di anticipazioni e altri interventi. Chiaramente non risolvono il problema nella sua complessità, ripeto, ma sono interventi che vanno a limitare i danni. Professoressa Sonia Stefanizzi, ricordo, autrice insieme a un magistrato dell'usura, un servizio legale offerto dalla Città Legale, quindi un'analisi sulla città di Milano. Ha qualcosa da aggiungere rispetto alla mia domanda, che rimane sempre la stessa, al di là dei problemi, degli interventi, delle associazioni? Non ha anche lei l'impressione che dietro un fenomeno così diffuso, così nascosto, ma così abbarbicato comunque negli usi, nei costumi, nelle abitudini, ci sia anche una nostra incapacità di valutare quello che è il limite della nostra capacità di acquisto, di espandersi, di muoversi? È sempre solo e unicamente un problema generalizzato, anche un problema proprio fisiologico, nella valutazione del valore del denaro, della possibilità di usare denaro quando non lo si ha? Questo non è difficile dare una valutazione su quelle che possono essere le componenti soggettive e psicologiche poi che riguardano il rapporto col denaro. Quello che mi viene da dire, che mi sembra anche un po' preoccupante, alla luce anche delle cose che sono state dette finora, è proprio il fatto che se l'usura, come lei diceva, come è emerso, che comunque anche nel contesto lombardo è un'usura artigianale, cioè i comuni cittadini hanno un ruolo importante, mi sembra di dire che l'usura si configura, proprio tornando al titolo del libro che ho scritto con il collega magistrato, che si configura proprio come un servizio che, cioè non è un servizio che la città illegale offre a quella legale, come avviene, pensiamo, non so, allo spaccio di sostanze stupefacenti, al gioco clandestino, alla prostituzione. Ma la cosa più preoccupante, a mio avviso, su cui riflettere, è proprio che si configura come un'offerta che alcuni settori della città legale, possono essere i singoli cittadini, possono essere dei gruppi semi-organizzati, ma anche dei gruppi molto organizzati che hanno una copertura ufficiale, penso alle società finanziarie e ad altre società, che appunto questi settori mettono illegalmente a disposizione delle loro vittime. Perfettamente chiaro, e riassume poi quello che è il senso di tutta la trasmissione: si parla poco di usura, si parla malvolentieri di usura, perché in fondo sembra che dell'usura difficilmente si possa fare a meno. È molto amara la conclusione, ma è questa. A domani.